Noi siamo un gruppo di ragazzi, diciamo alcuni studenti di giurisprudenza, altri degli attivisti, che hanno deciso di dar vita a questo osservatorio, perché già da un anno siamo rimasti sconvolti dall'approvazione dei due decreti, poi convertiti in legge, Minniti e Orlando, sull'immigrazione e sulla pubblica sicurezza. In particolare, quello sulla pubblica sicurezza va a delineare proprio delle figure che vengono criminalizzate, e quindi da una parte i senza tetto, gli accattoni, le prostitute, i venditori ambulanti, gli spacciatori, che anziché essere trattati come delle problematiche sociali che devono essere risolte con delle politiche di welfare, di fatto divengono oggetto di una persecuzione vera e propria. Abbiamo notato in questi ultimi mesi che c'è stato il diffondersi di ordinanze, ma anche appunto di DASPO, contro non solo i poveri e gli ultimi, ma anche contro gli attivisti, e abbiamo anche notato la mancanza di dati ufficiali. Cioè oggi il Ministero degli Interni non fornisce in alcun modo quelli che sono i dati sul numero di DASPO che dall'approvazione della legge sono stati emanati. L'unico dato è quello dell'ANCI, che però diciamo va a monitorare solo i capoluoghi, e quindi abbiamo deciso di dar vita a questo osservatorio. Ricordiamo che il DASPO è uno strumento molto discrezionale su che cos'è decoro e che cosa non è decoro, e dunque dà molto potere alle amministrazioni locali per allontanare persone appunto di vario tipo. Sì, è interessante notare questa cosa, cioè all'interno del decreto legge, quello sulla sicurezza urbana, si parla di decoro e di degrado senza andare mai a specificare il contenuto di questi concetti, e si dà un ampio potere discrezionale agli stessi sindaci. Attualmente noi parliamo in maniera impropria di DASPO, perché il DASPO è una misura che è nata soprattutto per quanto concerne le manifestazioni sportive. È stata poi estesa anche invece a delle condizioni differenti, a chi vive appunto in povertà e agli attivisti, quindi alle manifestazioni politiche. In realtà ci sono vari tipi di DASPO. Noi abbiamo un mini DASPO di 48 ore che può essere, diciamo, emanato dalla polizia attraverso dei controlli. Il DASPO invece di 6 mesi è emanato dal questore e può arrivare fino a 3 anni in caso di recidiva. Il problema che però si sta ponendo nelle nostre città, si può menzionare ad esempio Salerno, è che nell'arco di una settimana la polizia emette in maniera discrezionale 97 DASPO contro prostitute, e non vi è, diciamo, una forma di controllo che attualmente, diciamo, va anche a capire quanta discrezionalità c'è in questi provvedimenti. Oltre poi a, secondo noi, un discorso culturale, che è quello di un'espulsione che si sta verificando sempre più dalle nostre città dei soggetti marginali, e non è un caso che, diciamo, proprio in questo periodo si stanno diffondendo tantissimo tanto le forme di architettura ostile, che non sono una cosa nuova ma che stanno prendendo piede sempre di più nelle nostre città, quanto i comitati di cittadini contro il degrado, che danno vita proprio a queste forme di architettura ostile. E quello che noi vorremmo far passare come messaggio soprattutto alle persone che vivono le problematiche delle nostre città è che il nemico non è il senza tetto, non può essere il venditore ambulante, ma sono coloro che rendono le nostre città dei luoghi sempre più, diciamo, difficili da poter vivere a causa della mancanza di politiche sociali. Quindi vorremmo spostare e capovolgere l'ottica, no? Dalla sicurezza urbana alla sicurezza dei diritti. Questo è il nostro intento. Sulla pagina Facebook dell'osservatorio ho visto che segnalate, oltre a diversi casi appunto di applicazione di queste misure, però anche ci sono delle infografiche per spiegare bene di cosa stiamo parlando. Sì, noi siamo partiti proprio da questo, cioè dal voler cercare di contrastare la retorica dominante. E quindi cosa significa? Che se il senza tetto è percepito oggi come un nemico, come un problema di sicurezza, perché è una persona che si trova, diciamo, a stare all'interno dei nostri quartieri e a viverli nelle panchine e a viverli essendo percepito come un generatore automatico di degrado, ci interessa far comprendere come il senza tetto è una persona che è stata in realtà abbandonata da quello Stato che oggi lo criminalizza, no? Quindi siamo andati a comprendere, attraverso dei dati statistici dell'Istat, chi sia oggi il senza tetto, ed è sconcertante vedere come in realtà il senza tetto è tanto italiano quanto straniero, quindi è una condizione che riguarda, diciamo, anche i nostri concittadini, come la prima causa che comporta poi poi la condizione di senza fissa dimora, sia il divorzio e la separazione dal coniuge o dalla famiglia e la perdita del lavoro nel contempo, per far notare come, diciamo, tutti quanti potremmo in un futuro trovarci in quella condizione e anziché essere aiutati da uno Stato, venire, diciamo, repressi dallo Stato medesimo. Ci serve per poter smascherare alcuni dati, no? Sicuramente nel senso comune anche, diciamo, lo spacciatore è percepito come un pericolo, ma soprattutto è percepito come un criminale, pensando che dietro queste figure ci sia una reale capacità di autodeterminarsi. Quello che noi vogliamo evidenziare è che molto spesso lo spacciatore sono ragazzini che hanno 19-20 anni, che si trovano, diciamo, a non avere dei mezzi di sussistenza, ad essere ricattati poi dalle grandi organizzazioni mafiose che gestiscono lo spaccio in questo paese e che non ci sembrano che invece siano represse nel medesimo modo. Quindi stiamo cercando di andare a smontare dei luoghi comuni. Lo stiamo facendo piano piano, però pensiamo che sia la strada giusta. Prima facevi riferimento alla retorica, no? Della securitaria, la retorica del decoro e dell'alter ego degrado. Fa molto presa tra le persone, al punto di innescare anche una sorta di guerra fra poveri. Io me la prendo con quello che sta peggio di me, come forma anche di frustrazione per la mia condizione. E quindi è una retorica che fa molto presa. Per noi il problema è proprio, diciamo, non capire, non identificare bene il nemico, no? Quando abbiamo dato vita alle infografiche in cui si spiega la condizione dei senza tetto, delle prostitute, abbiamo posto una domanda retorica: conosci il tuo nemico? Cioè, sei sicuro che il tuo nemico sia chi oggi si trova in una condizione peggiore della tua? Oppure forse il nemico è colui che oggi, uno Stato che oggi non tutela i diritti fondamentali di tutti noi? Questo, diciamo, ci serve per poter far comprendere come il degrado non può vedere, diciamo, all'interno di questa categoria accostato la spazzatura che non viene raccolta con il senza tetto che invece si trova in una situazione di difficoltà, perché c'è una, diciamo, perdita di umanità che in questo momento dovrebbe preoccupare tutti e dobbiamo provare a capire come porre un freno. Perseguitare delle persone che già vivono in delle condizioni, diciamo, difficili, il caso delle prostitute secondo noi è abbastanza emblematico, no? Sono per la maggior parte vittima di tratta, non si può risolvere questo problema con un DASPO, quindi con un allontanamento dalle nostre città. E noi vorremmo confrontarci con i comitati che sono nati contro il degrado per far comprendere come in realtà il decoro e il degrado sono oggi funzionali alla mancanza di politiche sociali e alla criminalizzazione di persone che in realtà non hanno come colpa altro se non trovarsi in una situazione di disagio. È una rivoluzione culturale che, diciamo, vogliamo portare avanti andando a far cosa? Mappare le ordinanze, evidenziando anche le ordinanze paradossali che nel corso degli anni sono state effettuate in nome del decoro.